Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 4 ottobre il governo ha approvato il decreto sviluppo al cui interno trova posto l'agenda digitale che dovrebbe aprire la strada a una profonda trasformazione della pubblica amministrazione e della burocrazia del paese grazie ad una adozione massiccia, diciamo così, di tecnologie informatiche laddove finora ha imperato la carta. Parliamo della carta d'identità digitale, o meglio di un documento di identità unificato che su una sola smart card incorpora carta d'identità, tessera sanitaria, codice fiscale, eccetera, eccetera. Parliamo di sanità digitale, con la nascita del fascicolo sanitario elettronico e della cartella clinica digitale e con il passaggio alle ricette digitali. E parliamo di pubblica amministrazione digitale, in particolare della possibilità di spostare tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione sul mezzo informatico, ovvero la posta elettronica certificata, e di effettuare sempre in forma elettronica tutti i pagamenti, per esempio, che riguardano le pubbliche amministrazioni. E poi ci sono altri interventi analoghi nel settore dell'istruzione e della giustizia. Una volta divenuti realtà, questi strumenti consentiranno alla PA di ridurre i costi di gestione e contemporaneamente di aumentare e rendere più efficienti e rapidi i servizi e tutte le relazioni del cittadino con la pubblica amministrazione, dalla richiesta di permessi e certificati al pagamento delle multe. Parliamo quindi dei requisiti alla base del concetto di città intelligente. Ci domandiamo però, questo manifesto delle buone intenzioni fino a che punto può tradurre in realtà, con che tempi, a che condizioni? Ne parliamo con Carlo Mocchi Sismondi, presidente di Forum PA, manifestazione insomma che da anni si batte per la modernizzazione della pubblica amministrazione. Buonasera Mocchi. Buonasera a lei, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, prima cosa che le chiedo è cosa pensa, diciamo così, dei mattoni che costituiscono l'agenda digitale, quelli che un po' è elencato, sono quelli giusti? Molti di questi sono mattoni non solo giusti, ma che aspettavamo da molto tempo. Pietre quindi angolari, direi. Bavavamo dietro questo decreto da mesi, per cui insomma averlo finalmente in realtà non può che farci piacere. Altrettanto abbiamo bisogno, però i mattoni sono importantissimi, ma insieme a mattoni per fare una casa serve un progetto, e qui il progetto in parte c'è, in parte dobbiamo ancora capire le priorità, cioè cosa mettiamo prima e cosa dopo. Per adesso è elencato tutto come se fosse tutto importante allo stesso momento, ma i soldi non ce l'abbiamo. Certo, perché i soldi sono limitati. Per esempio qualcuno metteva in discussione che sia una buona idea spendere 82 milioni all'anno per i prossimi 5 anni per fare la carta d'identità come prima cosa. Dai primi anni 90 che parliamo della carta d'identità elettronica. Sicuramente positivo farlo se diventa il veicolo in cui passano tutti i servizi, certo, online. Se diventa solo un gadget che abbiamo in tasca invece di avere due documenti abbiamo il pezzettino di plastica, non ci serve a nulla. Quindi dicevamo, problematiche sono prima di tutto priorità, il poi dopo bisogna avere un piano finanziario. Cioè in realtà io temo che sia molto difficile pensare di fare in un'innovazione così massiccia senza ulteriori oneri, come scrive la legge, in almeno 7-8 punti. Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte di investimento, che vuol dire spendere in questo piuttosto che spendere in altre cose. Bisogna spendere bene, ma non spendere, sperare di poter fare innovazione senza spendere affatto, sembra un po' un'illusione, onestamente. Senta, l'articolo 20 in particolare del decreto parla di comunità intelligenti, è quello che tocca più da vicino l'articolo 20, il tema delle smart city. Lei che cosa ne pensa? Vede le criticità lì dentro? Ma io vedo delle grandi opportunità prima di tutto. Per la prima volta si dice facciamo un'alleanza tra le città che vogliono essere smart e riusciamo perché lavorino insieme. Per la prima volta si dice facciamo una piattaforma delle soluzioni. Ecco, questa, tanto a questo vedo anche un po' di criticità, devo dire. La prima criticità è che non viene definito che cos'è una comunità intelligente. Qual è il rischio di non dire in modo preciso che cos'è una comunità intelligente? Perché per esempio uno dei problemi che viene sollevato, vediamo che molte pubbliche amministrazioni che hanno deciso di scommettere su questa sfida delle smart city si stanno sviluppando i loro software, ognuno il suo, per esempio. In questo modo, beh, tanto smart non si è, perché poi si finisce per avere migliaia di software diversi che non comunicano tra loro. E questo è il tipo di problema in cui si potrebbe incorrere. Se noi non definiamo bene che cosa succede, il recinto della comunità intelligente, rischiamo che ogni sindaco, magari in ottima fede, pensa che ha fatto 15 metri di pista ciclabile e la sua è una smart city, che ha messo un semaforo e la sua è una smart city, che ha messo il callevato un semaforo e la sua è una smart city. Certo. Non c'è, quindi, oppure come dice lei, fatto un software particolare per la gestione dei tributi che è diverso però da quello che sta a fianco, per cui se uno ha una casa da una parte e una casa dall'altra va su due sistemi informativi diversi. Insomma, il problema, lei dice, è che per quanto possano essere meritorie tutti questi interventi presi individualmente, messi insieme non formano una strategia e rischiamo di fare tante cose che alla fine nel complesso sono irrilevanti, cambiano poco e niente. E allora questa è la grande opportunità che ci dà questo aver definito una legge del paese, le comunità intelligenti, di poter a seguito di questo articolo lavorare una definizione operativa fatta dal basso, non che non venga dal ministro, ma fatta dal basso e che permetta di trovarci insieme su una serie di obiettivi su cui l'uno aiuta l'altro in una maniera sinergica. Insomma, concentrare energie, cioè piuttosto scegliere un sottoinsieme tra i desiderata, che pure sono tutti buoni, però scegliere un sottoinsieme e concentrarsi su quello, magari rimandando qualcosa invece che... Anche, ma potrebbe essere che una città si specializza maggiormente nel traffico e pensa a tutti gli altri come fare, un'altra nella sicurezza, una terza nella sostenibilità ambientale, una quarta nei beni culturali e poi una volta che hanno sviluppato delle soluzioni del software le mettono a disposizione degli altri. Questa è la piattaforma di cui parla la legge. Allora capisce che noi arriviamo a dei grandi risultati facendo sostanzialmente degli sforzi meno gravi, meno gravosi anche dal punto di vista finanziario. Ecco, e voi cercherete in una fiera che si chiama Smart City Exhibition a Bologna dal 29 al 31 ottobre di dare una definizione, di riunire governo, un po' di gente. Sindaci, imprese fornitrici di tecnologie, a ragionare, a cercare di definire in maniera operativa, cioè che si fa domani, adesso la legge ce l'abbiamo, domani che si fa? Senta, ma nella pubblica amministrazione c'è la capacità, penso proprio anche ai dipendenti, di assorbire questo cambiamento, di metterlo in pratica? Nella maggior parte dei casi sì, le professionalità sono alte, quel che manca è la visione strategica dell'innovazione da parte del management, cioè dei vertici. Manderei a scuola più che gli impiegati, manderei a scuola i sindaci e i direttori generali personalmente. Grazie Carlo Mochi Sismondi. Grazie a lei. È tutto, a domani.